La zanzara extra. Parenzo, quando sei sindaco di Padova devi assolutamente, oltre che dare le multe ai puttanieri quando si fermano a puttane, devi anche obbligarli ad andare dallo psicologo. Almeno per 6 mesi, un anno, che gente malata. Un altro pazzo come te questo qua. Riccardo da Roma in onda, Riccardo, vai, vai Riccardo. Mamma mia, mamma questo è il solito quello. È il solito, questo è il solito pagliaccio mia. Riccardo da Roma, del Riccardo io Roma Fan Club. Qui. Mamma mia, mi stavo montando. Che stavo montando la bile. Però ho detto no, ma non me facchia, ma non me facchia, ma perché poi sennò capito, ma c'è veleno come al solito. È l'orario dei poveretti. Che si candidava. Io cioè l'ho appreso adesso, cioè quando ho sentito che il nulla assoluto è l'orario dei miserabili questo qua, un pagliaccio leccaculo il cui unico merito nella vita è di avere leccato il culo ai comunisti, aver fatto carriera fino ad arrivare lì a far pagliaccio con quell'altro moto a te già giornalista. L'unico merito di questo è aver leccato il culo. Questo si candida a sindaco. Guarda, io dopo Cicciolina e Moana Pozzi in Parlamento le abbiamo viste tutte, anzi solo Cicciolina, scusa, la buonanima di Moana lì non c'è arrivata. La buonanima è perché ho un grande rispetto, non sono una merda come Parenzo Bigotto. Piacere Parenzo, mi saluti tutti in famiglia, eh? Il novello imam. Comunque vabbè, lasciamo perdere perché solo questo, solo questo ti ha fatto incazzare. È una maschera scarica ormai. A parte le sbleputanate, è una maschera scarica. Tipo questa qua che attaccava quella povera signora. Una maschera patetica e scarica. Una maschera scarica. Sì, ma vorrei vedere a te con 50 di questi sul pianerottolo tuo. Solo che sul pianerottolo tuo non ci andranno mai, perché te abiti a Prati. Abiti a Prati. Beh, con adesso la Roma esattamente dove abito. Se denunzia dove abito, mi tocca poi mettermi un doppio impianto di allarme. Non li mettono a Prati, capito? Ma no, ci sono anche un po' a Prati, anche i parioli ci sono. La cosa che mi ha fatto incazzare di più non è stato questo è routine, lui si fa queste puttanate. Routine, la cosa che mi ha fatto incazzare era quando parlava quello lì. Becchi, un altro genio, un altro statista di questa trasmissione. Che ha fatto un'analisi altro statista, lucida, sì, un'analisi certo. Lucida quanto la sua, una statista come lei, noi praticamente. Siamo praticamente commissariati, diciamo, no? Commissariati. Non trovava le parole. Tra l'altro è andato anche tenero, perché lui ha semplicemente parlato di mettere sotto processo Monti e Napolitano. Mentre io direttamente gli sparerei in testa proprio. Ecco, il solito. Idiota, 20 e 40. L'hanno tenuto per dei mesi nella corsia d'ospedale sotto sorveglianza, lo hanno liberato e questo è il risultato. No, ma Riccardo, questo lo hanno tenuto per dei mesi in una corsia d'ospedale, questo qui lo hanno liberato e la prima cosa che fa è telefonare alla zanzara. Pensate, il codice militare prevede per il reato di alto tradimento. Vabbè, ho capito, non prevede la pena di morte. Vabbè, ma ho capito, ma l'hanno tolta. Alto, credo che l'abbiano tolta, tra l'altro, la pena di morte dal codice militare. Non lo so, però comunque allora, non si può dire tolta. Questo genio, allora, perché chiama tolta sempre questa trasmissione? No, non chiama mai. Per fortuna. Tolta. Che ce possiamo fare? Auspico che venga reintrodotta. Vabbè, no, ho capito, ma non si può dire che uno venga di non sparare in testa. Meno dai, male su, che non lo ricordi. Meno male. Negli Stati Uniti per alto tradimento c'è la pena di morte. Vabbè, ma ho capito, Riccardo. Negli Stati Uniti, gente come lei viene internata e buttata la chiave. Negli Stati Uniti. Drain the swamp. Ma adesso tutti sti coglioni tipo Parenzo, la Boldrini, tutto sto calderone di radica chic de merda che ha infettato l'umanità, tutto questo che ha rovinato i veri valori dell'Occidente, tutte queste merde, sì. Calcola che entro qualche anno si ridimensioneranno tutti, perché è partita dagli Stati Uniti finalmente un'ondata nuova contro sti globalisti del cazzo che fanno i proni con quello dell'altri. Perché è incredibile come il limite della democrazia è che l'opinione di questo signore qua vale come quella del professor Ricolfi. Questo è incredibile, ad esempio. Non ho capito. Secondo te che Riccardo Roma non avrebbe diritto di votare? No, ma di votare, poveretto, sì, cosa vuoi? La democrazia o la difendo? Così, no, ma io difendo il fatto che un idiota come lei, io difendo il fatto che anche un idiota come lei possa votare. Ma si pensa, no, molto di più guadagno io, ma pensi un po', ma pensi un po' quanto sono democratico, ma pensi un po' quanto sono democratico io. Io dico che anche un coglione come questo qui può votare. Pensa, ma pensa quanto difendo io la democrazia, nonostante ci siano idioti come questo qui, idioti, ma quali comunisti, ma non sai neanche chi sono i comunisti tu, ma chi ti ha detto che io sono comunista, ma non sai nulla, miserabile, ma non, e infatti io difendo la democrazia, io difendo che, e infatti io difendo che un idiota come lei, io difendo che un idiota come lei possa, io difendo che il suo voto, purtroppo, io difendo anche il fatto che il suo voto vale quanto il mio, purtroppo, e vale purtroppo quanto quello di Prodi, vale 10, ma lo difendo, io difendo questo principio perché a differenza sua so cos'è la democrazia e difendo il fatto che un coglione come lei, che non ha né arte né parte, che non sa un cazzo di niente, che non ha mai letto un libro, che dei giornali ha letto soltanto le parti in bianco, perché le parole insieme non ne sa il significato. Sei un ridicolo di merda, sei un ridicolo, ti sei permesso di difendere Crozza, ma no, perché Crozza andava sulle senti R8, poveretto, ma se tu non hai nulla da fare, ma come ti realizzi nella vita? Ma come ti realizzi nella tua vita? Oltre a odiare, come ti realizzi nella vita? Ma nella tua vita come ti realizzi tu? Ma invece di telefonare vai a lavorare, vai a guadagnarti i soldi, invece di telefonare qui e vomitare odio, vai a lavorare, vai a inventare qualcosa, vai a guadagnare, non rompere i coglioni. Vai a lavorare, ma vai a vai a inventati qualcosa di intelligente, così ce la farai anche tu un domani. Inventati qualcosa di intelligente, così non rompi i coglioni. Quando ti inventerai qualcosa di successo, non avrai più odio. Inventerai qualcosa di successo, non avrai odio. La Zanzara Extra. Il faraone nero, Andrea Sorbi, buonasera faraone. Mamma mia. Buonasera Cruciani, buonasera anche a Parenzo. Come stai faraone? Va bene, grazie. Senti, che è successo? Il terremoto, da che cosa sta è stato bene, provocato? Purtroppo, sta bene. Allora, a vedere quello che mi è capitato a mettere alle mani, non so se avete visto l'ultimo video che... No, non abbiamo visto. Scusi, non ho avuto tempo di vederlo, chiedo scusa. Sì, chiedo scusa. Se ho visto quello di Trump e Hillary, ho seguito altre cose, scusi. Qui le lascia di stare, sono problemi dell'America che fa capire quanto siano cretini. Comunque, sì, detto da faraone, d'accordo. Purtroppo, se guardiamo bene quelle due persone... Mi hanno segnalato che là in, su ufficio studi, chi è che l'ha segnalato? Lei ha un ufficio studi? C'ho anche alcune foto dell'aeronautica militare, quindi che cosa ti hanno segnalato, farò? Lampi strani sui cieli, per esempio, di Spoleto, di Foligno e di Perugia. Che vuol dire lampi strani? Ma quando? Nei giorni precedenti? Anche poco prima dei terremoti. Nella zona di Spoleto, li vede lei perché nella... è fuori di testa. Aspetta. Scusami, faraone, non ho capito. Lampi strani. Aspetta, non ho capito. Ma ci sono persone che vedono la luce, infatti, ma lo so, però sono faraone, malattie mentali. E che cosa vuoi che quando mi dica? Chi l'ha visti sti lampi ma strani? Ma come chi l'ha visto? Gente che sta in quelle zone lì. La sera di venerdì passato. Sì. Ma lei non è mai stato a Spoleto, non sa neanche dove si trova. Ho visto luci strane che venivano giù da... Vabbè, ho capito, ma che vuol dire luci strane? Ma le ha viste lei? Ha sentito anche le voci lei? Ma è matto? Non è che... di luce. Allora? Allora, quando c'è un terremoto, di solito viene rilasciato durante l'evento sismico del gas radon che viene dalle viscere della terra. E allora? Questo tipo di gas viene trova strada per uscire, altrimenti radioattivo, trova strada attraverso le fenditure della terra e la rilascia poi dalla terra verso il cielo. Vabbè, quel allora... lampo che tanti vedono. Dunque? Quelli invece hanno visto non la luce che partiva dalla terra verso l'alto, ma hanno che visto vuol dire? Che la vuol... luce dall'alto verso il basso. E dunque? È una cosa strana. E dunque è successo macello, perché sono cose che sembra una cosa provocata. Cioè, non ho capito, il terremoto da che cosa sarebbe stato provocato? Un'onda, un raggio, qualcosa. Quando scusi, Faraone, andiamo sui numeri. C'è qualcosa che dicono i numeri a proposito del terremoto? L'ultimo cioè. 6,5 che è la parola Adonai in ebraico, e poi c'è in America hanno detto 6,6 che quelle sono i testi della Bibbia. E dunque? Il Papa è andato a visitare la zona di Accumoli e di Amatrice il 4 di ottobre. E dunque? Quel giorno lì, il numero 48. Il numero 4 cosa vuol dire? E il numero 4 cosa vuol dire? Il numero 4? Allora, il 4 è un idiota. Allora, il 4 è il numero che riguarda 4, anche il nome di Gesù. Il numero 4 vuol dire a casa mia, lei è un idiota. Questo è il numero 4, capito? Il numero 1 vuol dire imbecille. Il numero 1 vuol dire imbecille. Il numero 1 vuol dire imbecille. Ma non ho capito che cosa vuol dire. Faraone, un idiota. Che vuol dire questa sequela di numeri? Ma non vuol dire niente. Ma che devi giocare al Superenalotto, alla ruota di Napoli, devi giocarli. Scusa, Faraone. 6,5, 6,6 e 4 ottobre la visita del Papa. Sono le botte in testa che ha preso. 4 e il numero 8 indicano Gesù Cristo. La Chiesa sa perfettamente che c'è qualcosa. Il Papa è mica andato da Matrice così per spot. E dunque che vuol dire? Che il Papa ha provocato il terremoto? Non ho capito. No, non l'ha provocato lui. Però lo sapeva. È andato di corsa lì perché sa che sta per succedere qualcosa, perché lui è il primo a sapere che quel terremoto lì non è naturale. Capito, Valenza? Ma come sta succedendo? È andato dopo che... Ma che dice? È andato il 4 di ottobre. È un povero demente che dà letteralmente i numeri. Ma li dà come sai quando uno dice dare i numeri? Ciao, Faraone. Dai i numeri. Ciao, Faraone. Ciao. Imbecille. Parenzo direbbe questo è il paese reale, questo è il paese, no, la maggioranza silenziosa. Sì, sì, quelli che certamente... Ma quale maggioranza silenziosa? Sicuro. Quelli che auspicano un mondo tutto aperto, dove non ci sono barriere, non ci sono confini. È già così, la gente viaggia per lavorare, ma quello che la gente si sposta, per lavorare, impara, per lavorare, viaggia, per lavorare, lavora, appunto, va, lavora, va, studia. Si sposta da un paese all'altro, non è che questi vengono qui per andare a sciare ad Albettone. Questi non hanno il desiderio, non anelano quando partono, attraversano il mare, anche di andare in quel postaccio lì. Ma perché dove postaccio? Hanno deturpato, ho visto le foto adesso, dove andate a vedere cosa ha fatto, lo sfregio che ha fatto questo sindaco, che c'è un posto che nessuno conosceva, ha costruito una pista sintetica da sci vicino a Vicenza, al Bettone, dove uno quando vuole può andare a sciare tranquillamente in una vera montagna. Che c'entra? Ma dai, ragazzi, la gente non è tutta ricca come te, che può andare nelle baite da 250 euro al giorno, vergognati. Ma uno può andare dalla mattina alla sera a sciare ad Andalo, sì, a fare della paganella, ovunque, ma non vada al Bettone, sicuramente non vada al Bettone. Il problema, Gio, è che non tutti hanno i soldi, capito? Parenzo non lo capisce. Che stupidaggine! Stupidaggine demagogica proprio, allora, per andare tutti hanno i soldi, come se lui fosse povero. No, assolutamente no, tutt'altro, però almeno non faccio finta di esserlo, però. Ma io non ho mai detto di essere povero, ma mai detto in vita mia. Anzi, odi i poveri, non sopporti la povertà. Ma che stupidaggine! Non sopporti la povertà. Ma chi te? Ma che stupidaggine è? Allora, però, la cosa fondamentale è questa: mi sembra di capire che Gio Formaggio abbia detto delle cose, Parenzo, che restano delle pietre miliari. Ha detto delle vergogne, ha detto. Tu ti diverti, ma hai detto delle vergogne. No, che mi diverto. Sì, detto... sei compiaciuto che ha detto delle cose incredibili, ma ormai paese è tutto farlocco. Quel paese mi piace. È farlocco ormai. Ma è un personaggio farlocco. Ma perché farlocco? Personaggio che appartiene alla commedia italiana, non è un sindaco. Alla commedia italiana? Come no? Alla commedia. Allora, fa ridere, non fa disgrazia. Contro di me ad Albettone. Vediamo quanti voti prendi. Candidati. Ma non me ne frega niente, ma non me ne frega nulla. Sarebbe bello fare una lista. Con la Chienze, l'ex ministro, vedremo. Fa campagna elettorale. Vediamo quanti voti prendi ad Albettone. Comunque l'ISIS, croci spezzate, è una statua della Vergine Maria frantumata. La profanazione dell'ISIS nella chiesa cattolica di San Giorgio a Bartella, 20 km a sud di Mosul. E noi li lasciamo occupare il Colosseo e metterli là in preghiera. Manganello e olio di ricino. Ma per chi Manganello e olio di ricino? Per quei musulmani del Colosseo? Cominciamo da loro e dopo andiamo avanti. No. Centro di culto ad Albettone. Centro di culto. Facciamo grande allevamento d'Europa di maiali, se dovesse essere che vogliono aprire una moschea ad Albettone. Capisci che una persona così è una macchietta, perché se parla seriamente... No, perché? Ma perché parla perché offende. Offende milioni... Occupati della pista da sci, che già è un fallimento assoluto. Ma scusami, Maometto era un pedofilo, secondo te? Ma dai, basta bestemmiare, però perché bisogna incitare alla bestemmia? È una domanda. Bisogna incitargli alla bestemmia. Già ha detto una cosa formaggio, vergognosa. Maometto. Basta che guardi quella cazzo lì di religione come tratta le donne. Allora? Ma come si permette? Spose, no, è una ma cazzo come si di permette di dire queste cose? Spose, ma guarda, io veramente a 12 non... anni. Spose a 12 ma anni. Ma come si permette di dire delle cose simili? E quindi i musulmani possono no, andare guarda, a fare io non culo. Io adesso ma non parlo sì, più con questo, guarda, io mi dissocio totalmente. Mi dissocio perché chiudilo perché sta dicendo delle cose gravissime, volgari e sta offendendo milioni di persone. Guarda, chiudilo. Sta dicendo una cosa, sta dicendo delle cose. Io non parlo, io non voglio partecipare. Non partecipi. Scusami, devi chiuderlo. Se uno ha, se tu consenti che uno offenda pubblicamente così, sei complice di una vergogna. E io non parlo. Ma scusa, mi sta dicendo. Andate a fanculo. No, ma scusami, Davide. Sta dicendo. Aspetta un attimo. Non c'è giustificazione. Stai facendo parlare uno che insulta gratuitamente. Stai tranquillo, devi stare tranquillo. Sei complice di uno schifo. Ma cosa? Sei complice di uno schifo. Ma devi stare tranquillo. Devi stare tranquillo. Basta. Stai tranquillo. Sei complice di uno schifo. Chiudilo. Devi stare tranquillo. Sta dicendo nei casi in cui. Ma cosa chiudo? Sei complice dello schifo. Stai insultando. Cosa? Ma sta dicendo una cosa. Stai insultando. Aspetta, Joe, stai zitto un attimo. Io non parlo. Joe, stai zitto un attimo. Fate voi. Divertitevi. Calma. Io non mi sto. Ma devi stare tranquillo, però. Devi stare tranquillo. Fermo lì. Devi stare tranquillo. Me ne vado. Ciao. No, ma stai tranquillo. I cazzi vostri. Ciao, devi stare tranquillo. Divertitevi. No, scusa, Davide. Devi stare tranquillo, però. Ma devi stare tranquillo. Non me ne frega niente. Devi stare tranquillo. Sono tranquillo e no, ma devi stare tranquillo. Anni me ne fotto di voi. E dei vostri giochi del cazzo. Ma sei impazzito. Basta. Ma devi stare tranquillo. È un volgare. Ma diglielo, va bene, d'accordo. Diglielo. Non devi tenerlo in onda. Ma cosa vuol dire? Non vuol dire niente. Io non partecipo. Non partecipare. Va bene. E tu difendi quelli che stuprano i bambini di 12 anni e le sposano. Bravo. Sta dicendo una. Non ha detto che sono pedofili tutti i musulmani. Ha detto un'altra roba. Ha detto che sposare una bambina di 12 anni è una cosa che non si può fare. Sarai d'accordo su questo? Lascia perdere i termini che ha usato. No, vabbè, adesso bisogna bruciarli vivi, un altro discorso. Ma sei partito uno che dà in sposa. Allora, sia il padre della bambina che quello che la prende in sposa. Mi abbiamo ammazzato. Allora, a 12 anni non mi pare che al di là dei termini eccetera ha detto una cosa che non è non è che puoi avallare i matrimoni con non mi dà ragione, solo lui non mi dà ragione, cioè, è pazzo anche no lui. Ma non è che lui si incazza perché tu ovviamente hai detto una religione del cazzo e altre cose così. Allora, se lui ha insultato la religione e secondo lui ha insultato effettivamente, hai detto una religione del cazzo, gli islamici, se tu gli dici una religione del cazzo, si incazzeranno, no? Cioè saranno un po' alterati. Chi è islamico e non sposa e non è a favore dei matrimoni con le bambine di 12 anni, che gli dici tu hai questa è una religione del cazzo, questi si arrabbiano o no? Ascoltami, il cristianesimo tollerasse ma non è che l'islam ci ha scritto il matrimonio dei bambini, cioè il matrimonio con i bambini. Però lo tollera e non lo condanna. In alcuni paesi, in certi contesti è così. Se non lo condanni, sei complice. Mi avete chiesto cosa ne pensi di quelli lì? Maometto era un pedofilo, se va con una bambina di 12 anni? È certo che è pedofilo! Va bene, d'accordo. Senti una cosa, ma voglio capire una cosa. Questa storia dei negri che sono inferiori, che mi hai detto prima. Perché? Ma perché di sì? Allora, è inutile che continuiamo con questa menata che siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali. Ma come sono inferiori? Che vuol dire sono inferiori? Un cervello più piccolo, non ragionano meno, sono meno intelligenti. Che cosa hanno? È una questione etnica. La storia l'ha fatta l'Occidente e tra gli scienziati non ho mai visto uno di colore. E che vuol dire? Li ho visti vincere le medaglie correndo, ma mai nessuno. Guarda ragazzi, siamo in presenza, caro Parenzo, del Ku Klux Klan, cioè conclamato o no? Ti piace il Ku Klux Klan, quelli con i cappucci eccetera, ti piacciono o no, Gio? No, io vado a volto scoperto, non voglio a volto cappuccio. Scoperto, però vuol dire, dico quello che voglio e dico quello che penso. Va bene, ciao. Ciao. Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati, sono ancora nelle belle colline dell'Emilia Romagna, in particolare mi trovo dalle parti di Parma dove si alzano le prime colline e qui c'è un bellissimo castello, tutto il territorio di Parma e di Piacenza è disseminato di castelli, ma il castello di Torrechiara che si trova in questa località è un castello particolarmente bello da vedere perché è un castello del 400 ma costruito con la grandeur medievale e soprattutto ricco di storie e di una storia d'amore veramente veramente straordinaria. Il costruttore di questo castello si chiamava Pier Maria Rossi, era un nobile di queste zone che era stato educato e aveva lavorato con i Visconti di Milano, che gli avevano naturalmente dato molte ricchezze. E a Milano questo signore aveva conosciuto una donna che divenne la sua amante. Pier Maria Rossi era già sposato con una Torelli, che era una signorotta locale, ma si innamora pazzamente di questa dama milanese, Bianca Pellegrini, e per lei costruisce ben due castelli. Uno addirittura lo chiama la Rocca Bianca, tanto perché si capisse appunto a chi era destinato, e poi il castello di Torre Chiara. Questa vicenda d'amore era notoria, tant'è che la moglie di Pier Maria, la moglie legittima, a un certo punto si rifugiò in convento per non dar più fastidio. Quello che è bello a Torre Chiara non sono i grandi cicli di affreschi delle sale che sono stati realizzati soprattutto nel tardo Cinquecento, ma ciò che rimane della grande sala da camera da letto dei due amanti, che è stata affrescata nella seconda metà del Quattrocento, e naturalmente il protagonista è Amore, che colpisce i due amanti bendato, li colpisce al cuore tutti e due. Tutte e due si scambiano i pegni d'amore, cioè l'uomo regala la sua spada alla donna, la donna gli pone sul capo una corona di alloro, e insieme si ritrovano in una casa incantata, che è poi il castello di Torre Chiara, per poter vivere finalmente in santa pace, in mezzo a questa grande natura, questo meraviglioso amore illegittimo.